Eccoci dal castello, ore 19.01, con una puntualità, così, un aggettivo castellano, una puntualità ducale. No. Allora, ciao a tutti da Gringo e dal nostro grande Camicia. Ciao. Di nuovo in diretta dal Castello Incantato, dal castello, c'ha molti nomi questo posto e diciamo che siamo in fase estiva, possiamo dirlo. Guarda, assolutamente, dal tavolino, dal mixer in giù siamo nude. Esatto, bravo, stavo per dire così, proprio quello, siamo così, in versione sbracata proprio. Che bello, qui oggi splende il sole e... Va avanti le produzioni enormi qui del castello. Vi ricordiamo che questa è una diretta praticamente nuova. Siamo forse alla terza, sarà la terza, terza diretta. Quindi è veramente incredibile questa nuova regia. Salutiamo tutta la mamma Wombat. Grazie, perché cioè, si sono moltiplicate. Questo Covid ha permesso a Wombat di fare come fa lo stesso virus, cioè di contagiare, di moltiplicarsi e di creare tante situazioni così dove ognuno è riuscito comunque a creare una propria regia con due microfoni, un mixer, e questa è la cosa, è già una vittoria incredibile delle radio libere, perché vuol dire che funzionano, si moltiplicano, vengono sempre più ascoltate, diventano parte di un tessuto, di un territorio. Esatto, bravo Camicia, hai detto proprio una cosa giusta. Ci siamo moltiplicati e siamo più forti del virus. E sì, la forza di Wombat è proprio in questa sua, insomma, questa sua organizzazione così che si è sparsa, insomma, nel globo terracqueo. Oh, sta contagiando tutti. Oggi scialiamo. Ma manca un po' l'elemento che rappresenta anche la serietà e la professionalità. Grazie. Di questa diretta, che è la dama del castello. Quando la dama non c'è, i cortigiani ballano. Esatto. E noi balliamo. Oltre a essere nudi, balliamo nudi, ecco. E allora balliamo con questa, in realtà non è proprio ballerissima, però non ho caricato nulla per adesso di ballerissimissimo, a meno che tu non abbia una cosa da volermi far mettere subito. Ah, eccola, no, invece sì, subito i decibel. Ecco. Alzate il volume. Il buon Ruggeri lo mandiamo, dai, e poi cominciamo, oggi tante cose di cui parlare, ci sarà anche una nuova rubrica. Ci sarà un trailer, un teaser, anzi, di una nuova rubrica, molto ganza, di Lady Liviet, che dalla prossima settimana o le due settimane ci racconterà. E lei vi racconterà che cosa vi racconterà. Comunque si parla di ecofemminismi, eccetera, eccetera. E poi un'altra rubrica che scoprirete dopo, rimanete... rimanete in linea e andiamo con il pezzaccio. Che roba contessa, all'industria di Alba hanno fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano... Avete capito che non è la contessa dei decibel, ma è comunque un gran super pezzo e quindi lo mandiamo con felicità, visto che siamo ancora a maggio. La polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue ha sporcato il cortile e le porte. Chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce, portate il martello, scendiamo giù in piazza. Affossiamo il sistema, voi gente sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore facea professione, del resto mia cara di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore e pensi che ambiente che può venir fuori, non c'è più morale contessa. Se il vento fischiava ora fischia più forte, le idee in rivolta non sono mai morte, se c'è chi lo afferma non state a sentire, è uno che vuole soltanto tradire, se c'è chi lo afferma sottoterra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Applausi, applausi. Sì, meritatissimi. Dal 1° maggio ad oggi, tutti i giorni, dovrebbe essere stata messa questo brano in tutte le radio del mondo. E infatti, tra qualche giorno ci sarà anche una manifestazione per riprendere quello che sarebbe dovuto succedere ben 25 giorni fa. E il buon gringo ci racconta. Esatto, sì, perché è stato comunque organizzato un flash mob per sabato 30 maggio, quindi questo sabato alle ore 17, e ci sarà un flash mob, quindi saremo, non sarà una manifestazione, non sarà un corteo, non sarà un corteo, ma sarà una cosa di, che come va ora, le flash mob. Esatto, come va ora. Come va ora. Diciamo è la partenza, per dire partenza, ma il punto da cui inizieranno a posizionarsi le persone è il presidio sanitario di Santa Rosa, Lungarno Santa Rosa, vicino alla porta... Come si chiama? Sanfrediano, porta, porta no, San... cioè in realtà non è Porta Sanfrediano, no, è quella sul Lungarno, al Torrino, Torrino Santa Rosa, sì. La Rondinella, come si chiama? Rondinella, sì. Porticina, la porticina di San Fidiano. Pigli e porta a casa, non lo so come si vabbè, ma a parte gli porta scherzi... Porta sega, sì. A parte, insomma, le bischerate di questo duo improbabile, invitiamo tutte e tutti a partecipare, a portare cartelli, striscione, bandiere, perché, diciamolo, nessuno... Mascherina, perché vogliamo, cioè l'organizzazione vuole evitare che si creano, sia strumentalizzata questa cosa, importante giornata. E con molto, molto orgoglio, Radio Wombat è la radio ufficiale dell'iniziativa. Assolutamente. Quindi capite bene che... È sempre bello vedere spuntare quel simpatico wombatino bianco attaccato a un'antenna su un foglio, su un volantino tutto rosso. È un'emozione che colpisce il cuore. Il cuore! Esatto. E quindi via. 30 maggio, sabato, ore 17... Tutti al flash mob, mi raccomando. Tutti sul Lungarno. Sul Lungarno. Fatevi intervistare se ci saremo, visto che ci saremo, e se passeremo da voi o se ci vedrete, venite a raccontarci un pochino come ve la state passando? Bene, allora abbiamo ricevuto già diversi contributi per la diretta di oggi dal Castello Incantato, e questa è Dani, questa è la Dani. La Dani, mitica Dani. Da Bergamo che ha iniziato questa rubrica e che noi abbiamo messo dentro al nostro contenitore molto volentieri e che ci dà un punto di vista diverso. No, Camicia. Sì, infatti è molto, sempre molto interessante, lo manderei e poi avremo l'onore di grande onore di averla in diretta. Oggi voglio strutturare il mio format VivinQ in un modo leggermente diverso. Lo so, vi ho abituati a dividere la giornata in tre momenti e ad ognuno associare un brano, ma oggi ci saranno dei piccoli cambiamenti. Vediamoli insieme. Psicologi studiosi ci dicono da giorni che per mantenere la salute mentale, che prima avevamo, vero? È importante crearsi, anche in quarantena, una routine. Dormire. Salutare. Peccato che quando si vive in famiglia ognuno cerchi di imporre la propria su quella degli altri. Ecco allora che si vedono comparire animali mitologici. Fratelli fancazzisti che scoprono la ginnastica, padri armati di mocio che ti riprendono perché sei passato dove non era ancora asciutto e madri che ti ignorano completamente perché stanno finendo di vedere l'ultimo tutorial per mascherine fai da te su YouTube. E quindi ti fermi a pensare, ma tutta questa routine ci farà davvero bene? Quel che è certo è che a nessuno passa l'appetito e oggi più che mai i parenti e gli amici si scatenano con foto e video di ricette che, a cracco, ti dico fermate, se al prossimo Natale ritrovo il polpettone giuro che li gonfio tutti. E allora pensi, ma perché non provarci? Esatto, facciamo una bella torta. No, mi manca il lievito. Allora facciamo il pane. No, non ho il lievito madre. Oh, che ormai ragazzi è diventato un tesoretto tipo Lingotto. E tempo di conserve non lo è esattamente. E allora ci rassegniamo al triste destino, armarci fino ai denti e affrontare l'ultimo girone dell'inferno. Il supermercato. Ti metti in fila, è lunghissima. Tieni la distanza, se no ti sparo. Metti la mascherina, ti si appannano gli occhiali. Tieni la distanza, se no ti sparo. Non toccare il carrello senza guanti. Non toccarti il viso con i guanti. Tieni la distanza, se no ti sparo. Oddio, che noia, non passa più. Prendo il cellulare. No, ho messo i guanti. Quello davanti a te è entrato, ma tu tieni la distanza, se no ti sparo. Finalmente tocca a te. Prendi la lista della spesa, ma sembri più la raffa che balla il tucatuca, ti rassegni al fatto che le cavallette siano già passate e abbiano preso tre quarti della tua misera lista, ma tanto a te non interessa. Il tuo obiettivo è solo uno, e lui è lì, che ti guarda, sul suo scaffale, l'ultimo lievito madre. Ti avvicini come a prendere un trofeo, allunghi la mano. Una strana luce ti avvolge e senti in sottofondo un coro che... No, non è il coro degli angeli, è la vecchia del paese che ti dice: c'ero prima io, giovane, tieni le distanze, sennò ti sparo. Ascolta le repliche, accedi al nostro blog. E ritorniamo al castello. Avete sentito il contributo della Dani che ci deve insegnare a fare radio, mi sa. Esatto, noi siamo due novellini e insomma. Poi noi si fa proprio toscanacci brutti, esatto, parlano, non si capisce dicono le parolacce. La sci aspirata. Che poi il toscanissimo gringo poi. Non penso di dover insegnare niente a nessuno. Ed eccoci, infatti, a sorpresa. Siamo a qui. A sorpresa, sì. Interviene proprio a gamba tesa la Dani. In questo, eccola, castello incantato si incontrano persone magiche. E siamo qui, infatti, con la Dani che stava facendo la modesta. Finta. Complimenti intanto, molto belle le tue rubriche, ma raccontaci, ma quanto hai studiato e che cosa hai studiato per farle così bene? No, studiato sempre troppo poco, nel senso che più che studiare è stata una passione, se vuoi, che ho scoperto in un momento fermo della mia vita, nel senso che mi ero appena licenziata e mi sono detta ma perché no, buttiamoci in questo corso di speakeraggio radiofonico che mi è sempre un po' interessato. E quindi nulla, ho fatto questo corso su Milano, ovviamente, che è durato un mese e mezzo circa, ma qualche anno fa ancora, e da là ho scoperto che, insomma, non era solo una passione, ma si può dire che ero un pochino bravina, ecco, me la tiro un po'. Sì, no, un pochino bravina, sì, ridiciamolo, non essere modesta. Sicuramente c'è sempre da imparare, anzi, riascoltandomi poi mi autocorreggo, perché purtroppo sono una perfettina così, e quindi è nata questa mini rubrica, dicevamo, ma più per sempre in un altro momento fermo della mia vita, che è stato questa quarantena che abbiamo vissuto tutti, e questa esigenza un po' di parlare, perché io sono logorroica, non so se si è capito. guarda, ti fermo, perché sennò non possiamo farti Bravissimo. Domande, Dani. Hai già capito. No, comunque noi ci fa molto piacere ospitarti in questo programma, perché comunque insomma ci fa piacere, perché affronti anche degli argomenti poi rispetto a noi che siamo un po', andiamo un po' così a braccio, e quindi discorsi strutturati ne facciamo un po', cioè, uno su dieci. Tu invece sei un po' un modello da seguire di organizzazione, e comunque noi abbiamo la dama che, essendo insomma, anche lei amica tua e delle tue zone, c'ha una visione abbastanza organizzata delle... Insomma, Bergamo vivaio, insomma, vivaio radiofonico. Esatto, perché... è proprio un difetto poi dei bergamaschi, no? È una caratteristica di essere super mega iper, sempre organizzati, perfettini, precisi con la tabellina, se no andiamo fuori squadra, eh? Sì. Anzi, ti dirò di più, i bergamaschi, se c'è da fare una cosa, la fanno prima. Cioè, non nel momento in cui bisogna fare una cosa, facciamola. Noi bergamaschi, bisogna fare una cosa, l'ho già fatta, perché già bisogna fatto, essere super organizzati. E siamo un po' così, bisogna prenderci per quello che siamo. No, ma noi apprezziamo, perché poi qui c'è gente da tutte le parti del mondo, e più a sud si va, più la gente è calma, tranquilla, con dei ritmi molto più blandi, per cui c'è bisogno di mettere un po' di sale, un po' di pepe al culo alle persone. Bisogna mettervi un po' in riga, insomma. Senti, ma scusate se entro e taglio un po' questa stereotipizzazione, ma che cosa, durante la quarantena, quindi per te è stata una super occasione, insomma, per lavorare su questo show. È stata una super occasione, sicuramente anche cioè, aiutato dal fatto che appunto Magda, le varie conoscenze, amici e quant'altro mi hanno un po' preso per mano e mi hanno detto ma senti, cioè, tu stai facendo questa cosa, però fatti un po' conoscere, fatti un po' sentire. E allora dai che dai, mi sono un po' convinta, ed è stata sì una manna dal cielo questo fermo forzato, perché la mia mente poi va, se non ha niente a cui pensare, favoleggia e vede un po' tutto a modo suo, si può dire? Si può. E come per la quarantena qua. Comunque il risultato è positivo finora. Sì, cioè, per me sì, nel senso che è stata una liberazione, punto primo, nel senso io vedevo un po' le cose a modo mio e sentivo proprio l'esigenza di metterle sul foglio bianco e raccontarle. Poi se qualcuno voleva stare a sentire, bene, Ne approfitto per chiederti una cosa riguardo alle radio, eventuali radio libere del Bergamasco, eccetera. Com'è lì la situazione da questo punto di vista, se posso chiedere, se conosci sì, comunque il mood? Ma la radio funziona sempre, appunto, diciamo, su canali ormai che sono internet, streaming e cose varie. Sono molto nascoste, nel senso che io me le ero andate anche a capare anni fa, per dire ok, faccio una collaborazione, cerco un po' di entrare nel circuito. È difficile perché sono solo, diciamo, la maggioranza sono su Milano, e quindi, diciamo, fisicamente recarsi a fare radio, qualcosa, viene difficile. Quello che viene più facile è ti pigli un microfono e ti fai la registrazione da casa e la mandi come podcast, che però mi lascia sempre un po' lì. Mi piacerebbe tanto proprio partecipare attivamente, diciamo, però vedremo. Sì, per sì. Ora faccio un lavoro totalmente diverso, ma si sa mai. È un ottimo piano B questo qui della radio. Io ti volevo fare una domanda, Dani, ma sì, la scelta degli argomenti, come hai fatto? Avevi un piano già, oppure di volta in volta quello che ti ispirava, che vedevi, che leggevi, ascoltavi? Nello specifico di questa piccola rubrica, se la vogliamo definire così, l'argomento, diciamo, principale era appunto la quarantena e quello che si stava vivendo, il momento storico della quarantena. Cioè, era troppo una figata per non parlarne, dai. Sì, cioè, sì. Diciamolo, era troppo diverso da quello che era la nostra, sì, routine. Sì, certo. E quindi l'argomento, diciamo, il fulcro è quello lì, e poi in base, diciamo, all'ispirazione, quello che mi ispirava a sentire il telegiornale, sentire parlare la gente, vedere fisicamente la gente che cosa faceva, come reagiva, io stessa come reagivo, le mie emozioni. Quindi è tutta una storia, se vuoi, un po' personale, un po' rivisitata, un po', definiamola così, una mia favola sulla quarantena. Sì, ecco. È interessante comunque, perché sì, c'è un filo comunque che può riprendere sia te che quello che ti circondava, cosa è stato, insomma, fare un po' un... Anche se fosse un po' romanzato, comunque è una fetta di realtà che sta vissuta, insomma. Sì. Sì, esatto, la definirei così, nel senso una storia basata su quello che è il momento storico reale che stiamo vivendo un po' tutti, però io ve lo faccio vedere a modo mio e anche con l'aiuto della musica, che è una mia grande passione, e la cosa mi ha sempre un po' divertito associare il momento che stavo vivendo con una canzone. Ok, sì, è una cosa che mi piace molto fare, e non prendetemi per pazza, ma ogni tanto lo faccio anche nella mia testa. Magari sto vivendo una cosa e mi viene in mente una canzone, l'associo, e magari non è che la canto, perché lasciamo perdere, però mi viene in mente. E allora ho provato a mettere tutto in questa rubrica qua, è nato qualcosa di carino, devo ammettere. bene. E allora ti approfitto per chiederti una cosa: se poi hai un brano, ovviamente, da chiederci di mandare, noi lo scarichiamo e lo mandiamo. E poi, visto che stiamo chiudendo, sarebbe bello un consiglio da parte tua a chi comincia a fare radio, o a chi potrebbe cominciare a fare radio, o chi ha voglia ma ha paura di farlo. Chi ha voglia ma paura di farlo, io consiglio semplicemente fallo e basta, perché se ci stai a pensare non lo fai, come tantissime altre cose, e via la vergogna iniziale, nel senso che all'inizio si ha sempre un po' timore, oddio cosa dico, cosa faccio, ma il mio accento fa schifo, come parlo, non ci interessa. Secondo me è bello che ognuno caratterizzi la, diciamo, la diretta piuttosto che il podcast con qualcosa di proprio. E quindi mettere qualcosa di proprio sia nel modo di scrivere che nel modo di parlare. Questo semplicemente dico, sì, secondo me. Nel mio piccolo sempre. Un ottimo consiglio. Bene. Grazie, Dani. Non so se volevi raccontare. Penseremo a questo brano. Esatto, pensa a questo brano, mandacelo quando vuoi, i contatti ce li hai, e ci risentiamo, tanto le tue rubriche continueremo a mandarle perché ormai siamo affezionatissime. Assolutamente, e anzi sì, ti ringrazio pubblicamente anche la dama, che è doveroso, insomma. Che è più vicina a te che a noi, però... in questo momento, esatto. Sì, sì, sì, sì. Però noi la ringraziamo lo stesso. Sempre, sempre. Sempre, sempre. Grazie mille, Dani. Grazie mille. Ti ringrazio. Buona continuazione. Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, subito un super super brano, così adesso la sparate a tutto volume e vai, uno super aperitivo stasera. E torniamo, 19:29, o voi che ascoltate Wombat, il gringo intanto mi ha abbandonato perché lo chiamano tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, è impegnatissimo, quindi mi lascia qua da solo. Io nel frattempo vi aggiorno un pochino su tutto quello che sta succedendo. Questa diretta del lunedì dal Castello, una delle dirette nate per raccontare la situazione Covid, aggiornare un pochino di quello che stava succedendo, e poi adesso... che le cose, le dirette speciali Covid non sono più così necessarie, così piene di notizie, è diventata un contenitore, una trasmissione a sé che non ha ancora un nome, o forse sì, diretta dal Castello, la vedremo. E insomma sì, è il nostro spazio dal Castello. Sì, esatto, e questo spazio lo riempiamo con tanti contenuti interessantissimi, come quello della Dani e come quest'altra rubrica che promette molto molto bene, vero Camicia? Guarda, davvero davvero tanto, tra l'altro ci ha mandato proprio anche il brano da ascoltare, quindi assolutamente Dani, adesso lo scaricheremo mentre va il prossimo contributo e te lo mandiamo. Questo è... E fatelo tutti, se volete parlare con noi in diretta, se volete scriverci, andate su wombat.noblogs.org. In home page trovate il... Viola, ecco, è Viola. Sì, in Viola trovate il link per collegarvi al pad dove poterci scrivere in diretta. Oppure abbiamo una mail, Nico? Ma in realtà forse ancora no, sì. In realtà no. In realtà no. Oppure no, la facciamo mandare a quell'altra Radio Contado. Ecco, mandare. Esatto, no, perché abbiamo sempre questa connessione con Radio Contado. E... Salutiamo i compagni e le compagne radiofoniche di Frittole, mercoledì pomeriggio, esatto, da Frittole con Radio Contado. No, e se vogliamo proprio dare una sbirciata sulle news, sicuramente la news più esilarante è quella degli assistenti, come che si chiamano i nuovi civici, i nuovi assistenti civici, che sono geniali. Chi sono i 60.000 assistenti civici più steward tra movida e spiagge, che spioni, che cosa devono fare? Ovviamente mi stavo andando a vedere poi vari articoli su InfoOut, tutte le infamate, ma non si è ancora in realtà capito davvero questi assistenti civici che cosa saranno, perché poi ci sono, stanno tornando indietro anche dalla politica dicendo che no, che dal Viminale pare che ci sia comunicato che non possano andare a gravare sulle responsabilità delle sì, né delle istituzioni né delle come si chiama, dei prefetti, sì, né del corpo di polizia, sì. Per cui boh, dice saranno dei volontari. A me comunque mi spaventa qualunque cosa, esatto, dia troppo potere a gente abbastanza invasata che poi va a rompere il cazzo se non c'è la mascherina. Però teniamo gli occhi aperti, queste sono notizie di oggi, quindi nei prossimi giorni capiremo cosa succede. Questa assistenza, infatti, civica, che secondo me, per come la intendo io, dovrebbe essere un modo per, ecco, aiutare tutte le persone che sono rimaste nella merda a causa, quella lì sarebbe un'assistenza civica e civile, invece qui riescono a stravolgere anche il significato, quindi c'è distanziamento, esatto, sociale, e c'è assistenza civica. Anche perché si sono affrettati a dire che non sono delle ronde, ma hanno tutto il sapore delle ronde. Ah, anche perché l'hanno detto, dico no, non saranno delle ronde. Esatto, sì, l'hanno detto. Questo vuol dire. Per cui, insomma, vediamo, queste non sono, ci sono tante altre novità, a parte che stanno continuando a essere sempre più tranquilla la situazione. In realtà a Firenze c'era molta movida, questo sì, lo posso confermare. Sì, questo fine settimana. Mi sono ritrovato a caso in alcune piazze fiorentine. Soprattutto i giovani dai 18, cioè i giovani sono tutti coloro che sono più giovani di me, quindi dai 18 ai 37, c'avevano voglia sì, di vedere le fidanzate e fidanzati, e quindi non c'era momento, mascherina, insomma, che tenesse, o se c'erano erano bucate. E quindi, boh, ma che, come si fa a bloccare ancora? Comunque, vabbè, queste sono analisi che non faremo adesso. Esatto, sì. Invece vi raccontiamo una nuova rubrica che sta nascendo all'alba di questo giorno. Vi facciamo ascoltare ciò che ci invia Lady Liviet con il teaser di Funambule. E quindi vai. Grazie a tutti voi che avete accolto questa proposta, e quindi sono qui per lanciare quello che accadrà ogni 15 giorni dal prossimo lunedì. Funambule, spazio al femminile, intersezioni e condivisioni, tanta buona musica e stimolazioni multidisciplinari fra storia, biografie, arti, scienze, culture, ecologie. Capito, un'altra super rubrica, e quindi adesso continuiamo a ascoltarci questa Nina Simone fino a fine. Cars and races, my baby don't care for. I don't play with this. Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner smiled. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me. Thank you. Simone, evviva, evviva questa rubrica di... Aspettiamo con ansia il dipanarsi di questa rubrica perché promette anche questo, promette bene. Usiamo dei termini aulici stasera. Lady Liviet, ragazzi, quante ne sa? No, lei è un mito, e ormai la sentite, penso, in ogni trasmissione di Radio Wombat, è un po' la voce di nonna di meno su Radio Wombat, adesso è... Si è fatta spazio, si è guadagnata il suo nido radiofonico con questa rubrica Funambule. Quindi le auguriamo successo, amore, certo. Fama. Fama, sì, sì, sì. Allora, stavamo guardando un pochino di attualità, di ultime notizie, di quello che succede adesso nel mondo, no? Diciamo in Italia, via. Sì, in Italia. E ovviamente porta bene la diretta dal castello. Infatti perché siamo noi che portiamo bene, di sicuro. Assolutamente. Dice, io ho aperto così, ANSA e compare, in 24 ore 300 nuovi casi, dato più basso da febbraio. E questo è una cosa positiva, e addirittura abbiamo Umbria, Calabria, Molise, Basilicata e la provincia di Bolzano senza nuovi casi. Madonna, ma pensate, si conferma dunque il trend in calo, ogni 1000 tamponi effettuati si trovano 14 positivi, ecco. 14 per 1000 quindi attualmente la media, i malati ricoverati in terapia intensiva sono 541 in tutta Italia, La Lombardia conferma ieri 0 decessi e quindi 34 segnalati fanno riferimento solo ad oggi. Ricordiamo anche a Firenze sono stati confermati 0 decessi già da 2 o 3 giorni. Sì. E quindi tutto bene. A questo punto dobbiamo concentrarci sulle ripartenze, ma come vogliamo ripartire? Se ne parla tanto in tante trasmissioni qui su Wombat, cioè, vengono analizzati in 2000 modi. Ecco, visto che stava parlando di assistenza... di assistenti civici, volevamo leggervi qualcosa che ora non trovo più. Vabbè. Ah, eccola, sono perplessa. Eccola, ce l'ho. Tra l'altro, vabbè, questi giochi di parole bocciato mi fanno abbastanza schifo. Comunque. Sì. Le decisioni assunte sui cosiddetti assistenti civici senza preventiva consultazione del Ministero dell'Interno non dovranno comportare compiti aggiuntivi per le prefetture e per le forze di polizia, e lo sottolineano le fonti del Viminale, mentre prosegue la polemica e dopo che dal Ministero per gli Affari Regionali era arrivata la precisazione secondo cui gli assistenti civici sono volontari e non sono ronde anti-spritz. Ecco, ecco quello che dicevo anch'io prima, esatto, sono affrettati. Esatto. Allora, rileggiamo questa frase. Come a me mi suona, no? Il Viminale sottolinea che mentre prosegue la polemica è arrivata la precisazione secondo cui gli assistenti civici sono delle ronde anti-spritz. Esatto, questo mi suona così. Anche a me suona comunque in questo modo. Però c'è da dire che c'è così tanta bisogno di ripartenza che anche a Firenze si è visto che evidentemente hanno paura le istituzioni a dire troppi no alle attività, no? Che stanno ricominciando a far girare l'economia, perché capiscono, si trovano un po' tra l'incudine e il martello. Da una parte c'è il Covid e le pressioni dell'opinione pubblica che dicono ma ste robe, ma sta gente che cazzo fa in centro. Sì. Dall'altra ci sono tutte le migliaia di attività che sono morte per 2 mesi e che ora dicono ascoltate, qui se non ci fate vendere un po' di roba alla gente che vuole uscire si muore definitivamente. Ed è un grosso dilemma questo da affrontare. E comunque in questo momento le istituzioni si trovano tra l'incudine e il martello e non è una decisione facile, ecco, non è un momento facile. Tu cosa faresti? Loro. Cosa faresti, gringo? Ma diciamo che quello che manca forse è una non consultazione brutto, ma parlare con le persone, ecco, spiegare, capire cosa si aspettano e non trincerarsi dietro al fatto di essere un'istituzione e quindi di poter decidere anche senza, diciamo, consultare i cittadini, ecco. Abbiamo attenzione, ecco. alle porte del castello si affaccia un abitante del castello che lo accogliamo con tutti gli onori, con lo squillo delle trombe. E lui che si presenta con un ottimo Jim Lemmon. Bene, bene, allora. Io vi lascio condurre, tanto gioco con la musica sotto. Allora, diamo il benvenuto a Riccardo, abitante del castello, che è venuto a trovarci per conversare con noi. Sì, possiamo già fare alcune domande su questa manifestazione di sabato, che sta sgranando gli occhi. ecco, guardava il retro, sì, nel retro è pericoloso. Il retro è pericoloso e il fronte invece spiega tutto. Spiega come quanto saranno, due metri di distanza da uno all'altro. Ma sarà possibile riuscire a organizzare un serpentone tale a Firenze? Secondo me finisce a taralli e vino. Comunque. Ma non si sa perché, vabbè, se si fa riferimento a questo fine settimana sembrerebbe impossibile, ma comunque si spera che ci sia un po' di, comunque da parte di chi partecipa ci sia un po' di responsabilità. Di responsabilità, sì, esatto, vabbè. Di responsabilità. Lo vedremo. Bene, e come mai l'abbiamo invitato in questa diretta? Bene, abbiamo invitato Riccardo nella sua qualità di sindacalista perché volevamo discutere un po' con lui sulla su come è stata affrontata, tirare anche un po' le somme di questa emergenza, di come è stata gestita all'interno in generale delle istituzioni, del sistema sanitario. Un focus sulla Toscana, non parliamo di roba fuori dalla Toscana, ecco. Quindi cediamo il cediamo un microfono. Prova. Ciao. Ecco. Si sente, sì? Sì, si sente. E, Riccardo, tanto grazie di essere venuto, grazie di aver accolto l'invito a questa trasmissione. A voi. E, giusto per dare due indicazioni a Riccardo, siamo, e anche a chi si fosse sintonizzato adesso, siamo in diretta per la diretta speciale del lunedì su Radio Wombat, quindi qui partono i brindisi, siamo in piena estate. Anche Riccardo si è presentato in tenuta estiva, anche se le nostre ascoltatrici non lo possono vedere, meno male per loro. Allora Riccardo, in generale, insomma, non dal tuo punto di vista, ecco, che comunque hai un punto di vista più vicino rispetto a noi che siamo stati comunque fuori dal, perché comunque anche noi siamo stati fermi per questa quarantena, cosa hai visto, cosa hai percepito anche dal punto di vista dei lavoratori, e ci interessa tanto anche l'aspetto di come hanno vissuto i lavoratori della sanità questo aspetto della pandemia e di tutto quello che poi era il loro lavoro. Vabbè, ciao a tutti. Devo dire, come l'hanno vissuto i lavoratori, adesso parlare per tutti è sempre molto complicato, però direi con un misto di paura e d'orgoglio, chi decide di lavorare alla sanità, specie se fa l'infermiere o fa l'OS, insomma, lo fa perché lo sente, no? In modo significativo, e quindi si sente in mezzo a qualcosa di molto grande e molto importante. Peraltro, non so se è solo la mia percezione, ma l'idea di ruolo sociale di chi lavora in sanità si è un po' trasformata, no? Pensate soltanto che fino a 3 mesi fa, insomma, l'idea che chiunque fosse indipendente pubblico era principalmente un fannullone, era molto diffusa, sì. E quindi sì. Ecco, forse paura, orgoglio e anche un po' di sorpresa di essere passati in 20 giorni da fannulloni a eroi, no? Questo è un paese che non ha mai via di mezzo. E dopodiché anche con paura, perché soprattutto direi più o meno fino alla metà d'aprile, per esempio, la questione dei DP, insomma, delle mascherine, dei guanti, eccetera, eccetera, è stata, specie nelle prime settimane, molto, molto complicata, no? È molto difficile, anche in posti dove davvero erano indispensabili. Adesso non saprei a quanta responsabilità, o come dire, quanto ritardo c'era. Certo, ad un certo punto tutti, in almeno metà del mondo, cercavano mascherine. Esatto, c'è stato un problema di approvvigionamento. Mascherine e, come si dice, disinfettanti, eccetera. Sì. Quindi, diciamo, l'inizio è stato di forte smarrimento, poi è cambiato non per tutti, ma per una parte di persone il modo di lavorare, che soprattutto se vivi in quinta, come dicono gli infermieri, no? Gli infermieri del sistema sanitario regionale toscano vivono in quinta, cioè fanno pomeriggio, mattina, notte, riposo libero, è il miglior turno possibile, peraltro, cioè, sì. Non glielo toccare, perché però se tu nel tuo modo di vivere, nella tua percezione di te stesso mentre sei a lavorare, il fatto di diventare completamente intabarrato cambia. Cioè, non solo le cose pratiche, cioè che se devi andare in bagno non è che dici ragazzi vado un attimo in bagno, devi bloccare, deve essere organizzato, insomma, ma anche proprio la relazione con gli altri, no? Con le persone, cioè, è diventato tutto un'enorme terapia intensiva, e quindi con un pezzo fondamentale del lavoro d'assistenza è anche la relazione, no? E questa è impedita. Viene a mancare mascherina. Sì, come nella vita di ciascuno di noi, sono moltiplicato N. Dopodiché mi pare che le cose si siano piano piano assestate. Mi sembra anche, però è abbastanza presto per dare un giudizio, mi sembra che ad un certo punto il sistema, ora senza metterla troppo sul tecnico, però il sistema si era adeguato all'emergenza. Sì. Quindi non so, nella nostra regione sono raddoppiati i posti potenziali di terapia intensiva. Raddoppiare la dotazione di terapia intensiva da un punto di vista proprio meramente industriale e organizzativo è una roba complicata. Sì, comunque. E adesso che siamo in questa fase, che è una fase un po' tecnicamente bastarda, no? Nel senso che è una fase in mezzo, sì, sì, un limbo. Esatto, limbo cui è molto più carino che bastarda. Hai ragione. Diciamo buona parte di quello, ditemi quando smettere, perché mai dare la parola a un sindacalista senza dargli il tempo, però diciamo che adesso siamo in una fase di passaggio tra l'emergenza pura, in cui tutto il resto del funzionamento, diciamo, fisiologico normale del sistema era stato completamente congelato. Adesso c'è anche una delibera della regione, che non vi cito per numero anche se lo conosco, perché è uno dei pochi numeri che conosco. Adesso siamo nella fase di convivenza, che da un punto di vista del lavoro, ma anche dei servizi, sarà una fase strana, perché adesso ve la dico male. Prendete un ambulatorio di un ospedale. Sì. È chiaro che tra distanziamento sociale e necessità di igienizzare tutto quanto tutte le volte che entra un paziente. Sì. Mettiamo che quell'ambulatorio come la gran parte degli ambulatori stesse aperto fino alle 2 di pomeriggio. Adesso la prima cosa che deve fare per riuscire a fare quasi lo stesso numero di prestazioni è stare aperto fino alle 6 la sera. Sì. Questo è più o meno come se dovessimo prendere 10 persone e portarle a Roma. Prima le potevi mettere in un furgone e portarcele tutte. Ho detto male, ci spieghiamo. Adesso ce le devi portare una per uno. Questo, tenete conto, adesso vi faccio l'esempio dell'ospedale di Careggio, ma solo per darvi la dimensione. Careggio ha 5.000 dipendenti, cioè è un colossale complesso industriale che funziona 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Cioè, come tocchi l'organizzazione di un sistema di questo tipo, sai dove cominci e non sai dove finisci. Esatto. Quindi la prima cosa che si abbatterà, e che si sta abbattendo sulle persone che lì ci lavorano, è in qualche caso un cambiamento d'orario e quindi un cambiamento di vita. Adesso la regione toscana ha assunto quasi 2700 persone all'inizio della pandemia, a tempo quasi tutto indeterminato, quindi devo dire un po' più di gente a lavorare c'è, perché occorre, ma se dovessi fare un pronostico, la capacità di risposta del sistema così com'è non dovrà necessariamente essere aumentata, e un po' mi preoccupa su dove andranno a aumentarla. Sì, il sistema pubblico più di così non lo può fare, quindi mi viene in mente da qualche parte le compreranno le prestazioni. Questo mi sembra un tema non banale. Ti riferisci alla sanità al privata? Sì. Ma ora te hai citato 2700, un numero, va bene? Mm-hmm. Che insomma a me sembra grande, però io non ho la percezione della Toscana come a livello sanitario. Ma eravamo come tutti in deficit e abbiamo colmato un po' di deficit, o si può stare un po' più tranquilli? È una domanda difficile, nel senso che in realtà dipende sempre da qual è il termine paragone che usi. Cioè, in Italia ci sono 6 regioni che non sono, da un punto di vista sanitario, in piano di rientro, 6 su 20. Piano di rientro vuol dire che tu sostanzialmente non assumi più nessuno, vuol dire una serie di cose, ma principalmente vuol dire che non assumi più nessuno. Non è il caso della Toscana. Mm-hmm, sì. In Toscana ci sono stati negli ultimi 5 anni, forse 7 anni, dipende da quale termine di paragone usi, però 2 effetti sulla gestione del personale. Diciamo, un relativo calo, ma quasi impercettibile, di personale in valore assoluto, cioè in numeri, sì. E un effetto di sostituzione nel personale all'assistenza tra infermieri e operatori sociosanitari, che sono un'altra cosa, okay, ma che su alcune funzioni finiscono per toccarsi e ovviamente costano meno perché sono su un livello, sì, retributivo, certo, diverso. Se le assunzioni fatte bastano, sono vere o sono finte, nel senso, da qui alla fine dell'anno una serie di persone andranno in pensione, certo, dipende molto se queste persone che si sono assunte adesso copriranno, come si dice tecnicamente, il turnover o non lo copriranno. Però insomma, se adesso poi c'è anche un effetto doping di questi mesi, perché avendo chiuso tutti gli altri servizi, cosa hanno fatto le aziende sanitarie pubbliche? Hanno preso quelli che erano su altri servizi e li hanno messi sull'emergenza. Adesso che riaprono i servizi, e adesso c'è la prova del budino, cioè vedi se davvero manca gente o meno. Sì. Esatto, hai dato bene l'idea di, diciamo, della situazione, anche se non possiamo, ecco, appunto come hai detto te, ora è la prova, quindi si vedrà più avanti. Camicia, te hai, mi sembra... Io sì, allora, avevo un paio di domandine, quindi se comunque dal punto di vista della regione toscana si può dire che sia stata gestita comunque, forse non è arrivata un'emergenza così elevata per cui sono riusciti a gestirla in modo abbastanza controllato. Però invece il caso Lombardia, se da un estremo si parla di un attacco ingiusto contro la Lombardia e dall'altro estremo invece di una totale incompetenza della regione, te dove ti posizioni tra questi due estremi? Ti do la mia opinione, che però è solo mia, nel senso del tutto arbitraria, va bene? Secondo me lì c'è un problema strutturale e due schifezze le hanno fatte. La prima, e sono decisioni politiche, la prima schifezza che hanno fatto è non chiudere quelle tre valli tra Bergamo e Brescia quando era il momento di chiuderle, e non lo hanno fatto sulla base, guarda, proprio siamo struttura e sovrastruttura, sulla base di un'analisi precisa di qual era l'interesse prevalente, e lì si è scelto che l'interesse prevalente era non chiudere le attività economiche di quel pezzo lì di paese, di regione e di paese, sì. Che peraltro, se andate a vedere, adesso io sono tutto fuorché complottista e sono anche un moderatissimo rispetto a voi, quindi non sono sospettabile, sono come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto. E però quello è il cuore di Federmeccanica, che è il pezzo di quelli più brutti, più sporchi e più cattivi di Confindustria. Niente arriva a caso, eh? Sì, e il nuovo presidente Confindustria è l'ex Bonatti, come si chiama l'imbecille, insomma quello lì che è diventato nuovo presidente Confindustria, è l'ex presidente di Asso Lombarda e l'ex presidente di Federmeccanica della Lombardia, cioè quello è un potere vero, e quindi lì hanno deciso di fare una scelta altra rispetto, sì, esatto, nel bilanciamento degli interessi, cioè, è chiarissimo. La seconda cosa che hanno fatto, e che è un'altra schifezza, questa secondo me nella prima c'è dolo, ti ripeto, è la mia opinione, quindi non ho la pretesa della verità, però se lì c'è una scelta nell'altra cosa, cioè aver trasformato gli ospizi, insomma, quelli che si chiamano RSA, in incubatori di pandemia, sì, secondo me questa è meno solo dolo, cioè c'è anche dell'incompetenza. C'è anche del dolo, perché anche lì, se te vai a vedere chi sono quelli che gestiscono quelle RSA e quanto costava metterle in sicurezza, non parlo solo del famosissimo e auspicabile Pio Albergo Trivuzio, che già una volta diciamo, ha prodotto degli effetti, diciamo, un giro di compagnelle, insomma, lasciamo perdere, tanto non ci vorrei una mia, insomma, mia, siamo sereni, e lì però c'è dell'incompetenza, perché gestire in questo modo il rapporto tra pandemia e RSA è come pensare, passami la metafora tristissima, però è come pensare di difendere le galline mettendo le volpi a guardia delle galline, sì. È così, cioè quello ha un effetto moltiplicatore. Invece c'è un dato strutturale molto tecnico che però invito tutti a guardare in quella tabellina in cui si vedono i dati della pandemia, no? Sì. È divisa per righe, c'è scritto quanta gente è malata, quanta gente è ricoverata, quanta gente è in terapia intensiva, eccetera eccetera. Ora il numero di quanta gente è malata è funzione di quanti tamponi fai anche, no? Esatto. Non solo, ma anche di quello. Però una volta hai capito qual è il numero, cioè hai fatto il cerchio di quelli che sai che sono malati, sì. Guardate il rapporto che c'è tra il numero dei malati e il numero degli ospedalizzati nelle diverse regioni italiane. Questo spiega, proprio in senso tecnico, organizzativo, come funzionano, non di qualità, proprio di modalità, i diversi sistemi sanitari regionali. Il rapporto della Lombardia è 1 su 2, cioè ogni 2 infettati uno è ospedalizzato. Sì. Il rapporto in Toscana è 1 su 3, in Veneto è un po' meno di 1 su 4. Questo dipende da un fatto organizzativo, cioè di quanta spesa, di quanti servizi ci sono sul territorio e che quindi riescono a essere proattivi, per dirlo in un termine da gente a studiare alla Bocconi, però insomma quanto riesce il sistema ad andare incontro alle persone e quanto invece lo si aspetta all'arrivo negli ospedali. Sì. E questo fatto, questa caratteristica del sistema lombardo, più che del sistema veneto, che ha una precisa scelta politica, perché lì c'è un sistema integrato tra pubblico e privato assolutamente pari, cioè tu vai dove, come da noi vai all'ASL, lì vai a un ospedale e può essere o pubblico o privato, il sistema è integrato. Sì. Ma non è un caso che quel sistema sia fondato sugli ospedali, perché sugli ospedali si costruiscono margini di profitto, e quindi te le fa. E questo ha trasformato l'ospedale di Lodi in un altro hub per la pandemia. Quindi ci sono una serie di schifezze fatte al momento e una serie di scelte politiche che vengono da più lontano. Stato chiarissimo, e mi è venuta in mente un'altra domanda che volevo farti. Vai. Tornando un po' all'aspetto dei lavoratori, aspetto sindacale, e a una dinamica, a una visuale proprio più nazionale. Questi 2 o 3 mesi hanno fatto emergere ovviamente anche tutte quelle classi di lavoratori che sono ancora lasciate molto allo sbaraglio, e si parla dai delivery a tutto l'aspetto dei migranti, che ovviamente fin quando non erano regolarizzati non potevano neanche rientrare sotto il cappello di alcun tipo di protezione, e che adesso speriamo siano alcuni un po' più protetti. E in base alle ultime dichiarazioni di Landini abbiamo ascoltato anche un po' di illuminazione da parte sua riguardo uno spostamento di focus da quello che è il lavoro, come era inteso fino ad ora, invece quello che sono le caratteristiche dei vari singoli lavoratori. Credi che quindi ci sarà nei prossimi anni, e che questo possa essere un punto d'inizio per un cambiamento strutturale nella modalità dei principali sindacati nel rapporto che hanno con certe categorie di lavoratori, o anche lì sono parole che possono essere dette nei momenti in cui vengono fuori viene scoperto il fianco, ma che poi rientra nel momento in cui anche l'emergenza si attenua? Ci vuole un congresso per rispondere a questa domanda. È un po' complicato, però guarda, detta proprio così, cercando di non essere eccessivamente indulgente verso chi mi dà da mangiare, è una cosa abbastanza tipica, insomma. Noi, al netto delle volontà politiche e quindi delle scelte che si fanno verticalmente in qualunque organizzazione, compreso il circolo della pesca, composto da più di una persona, è soggetto a una modalità con cui si assumono decisioni. C'è un ritardo che parte da un malinteso, cioè la sua domanda contiene, se non capisco male, l'idea che la percezione che si ha del sindacato è di qualcuno che pensa soltanto a pubblico impiego e grande industria. Sapendo che, adesso per dire una cosa sconvolgente, il modello della grande industria, il modello fordista, diciamo, ha smesso di esistere in questo paese, che notoriamente arriva un po' dopo tutti gli altri, più o meno nel 1972, con le isole produttive, col cambiamento di modello produttivo a Mirafiori e il modello Toyota. Quindi diciamo, abbiamo questa quarantina d'anni di ritardo, ecco, rispetto all'analisi di questo. Però, e questo è endemico, cioè, guarda, io all'Elefante Rosso, che è il modo in cui chiamo la CGL, voglio proprio bene, e se non lo facciamo non lo fa nessun altro, perché per carità, il resto lasciamo perdere. E c'è in mezzo una difficoltà, ce n'è una culturale evidente, ce n'è una politica, se vuoi ce n'è perfino una generazionale, adesso più o meno la nostra generazione, io ho 40, dai, 43 anni, non so, più o meno, cioè io sono considerato un giovanotto là dentro, con tutto che invece se senti da come parlo sono abbastanza, diciamo, già inserito in una modalità per cui quando parlo sembra un documento del PC degli anni 70. E poi però c'è un problema vero che ha a che fare con il modo in cui il lavoro è scomposto ed è organizzato, perché un conto è, ti faccio un esempio sulla, di cose di cui mi occupo direttamente, sanità e sociosanitario, è andare a organizzare i lavoratori di un ospedale, è più semplice che tecnicamente proprio perché sono lì, è più semplice che organizzare gli assistenti, gli educatori professionali, le cooperative che vanno in giro, no? In una delle miliardi di cooperative che ci sono. E in più c'è un altro problema di cui nessuno parla, che invece è una questione sindacalmente molto rilevante. E cioè, adesso, provo a dirla in 40 secondi se mi riesce. Siccome non c'è una legge che decide chi è che può firmare contratti nazionali, chiunque è titolato a firmare un contratto nazionale. Questo significa che tre persone che si mettono insieme fanno un sindacato, tre persone che si mettono insieme, a volte sono anche parenti, fanno un'organizzazione datoriale e firmano un contratto nazionale che vale come quello firmato dopo mesi di trattative, scioperi, eccetera, eccetera, dalle principali organizzazioni, da CGL, CISL, UIL, non ti piace, dall'USB, da chi ti piace a te, insomma, dai COBAS, eccetera. Questo determina il fatto che c'è una pluralità, una miriade infinita, anche solo nel lavoro subordinato, tralascio delle partite IVA, della questione dei delivery, tralascio di questo ma, perché sta dentro lo stesso ragionamento, per cui tu anche nella stessa azienda, nello stesso luogo, hai persone che magari lavorano insieme, ma che non solo guadagnano cifre diverse, ma hanno trattamenti giuridici, diritti molto molto diversi tra loro. Mi consentite di fare un esempio? Solo uno, posto zitto. Tra tutti gli eroi di cui si è parlato, quelli che... sapete da quant'è che non si rinnova il contratto della sanità privata in Italia? Dal 2006. Sono, cioè, significa 14 anni, significa che quell'infermiere che lavora, scegliete un posto, a Dognocchi, guadagna in valore assoluto gli stessi soldi che guadagnava nel 2006. E che solo in quel settore lì, tra sociale e sanitario, ci sono, non parlo proprio di quelli schifosi, cioè di quei contratti firmati da organizzazioni, da centrali cooperative che si creano un sindacato, di quelli accettabili, diciamo. Sì. Ci sono 18 contratti nazionali di lavoro che regolano quella filiera lì. Costruire la rappresentanza di questa roba è tecnicamente un casino, a parziale, diciamo, di scolpa dei gravi ritardi. Sì. Comunque, sì, diciamo che effettivamente è cambiata molto nel giro di poco tempo, perché l'organizzazione del lavoro, almeno a livello politico, di gestione politica, è cambiata molto negli ultimi anni, perché ogni governo, che poi la vita di ogni governo è sempre durata meno, quindi a ognuno che arrivava ha sempre cambiato qualcosa. Certo, questo non va a discolpa di, insomma, dei sindacati per il ritardo, ecco, questo, insomma, non mi sento di dirlo, ecco. Però comunque sì, dall'analisi che Riccardo ci hai fatto, si vede bene che tutti questi cambiamenti influiscono parecchio anche poi per molte questioni. A me quella generazionale mi sembra che torni sempre parecchio, diciamo, in questo paese, il fatto di, perché magari lo vivo anche sulla mia pelle, insomma, in quanto libero professionista, sono un giovanottino, anche se sono alla soglia dei 40 anch'io, insomma, sono ancora un pischellino, quindi non devo neanche chiedere di più, devo stare al mio posto, ecco. E questa pandemia, ma non è solo questa pandemia, l'ha dimostrato, insomma, per cui i grandi, insomma, quelli che già erano molto strutturati, hanno preso tutto, chi era piccolo, chi non era, è rimasto senza. No, diciamo che per oggi, insomma, abbiamo già dato abbastanza, abbiamo già chiesto abbastanza Ciao, grazie. Grazie mille Riccardo, grazie. Grazie mille, buon appetito. Buon camicia. Andiamo con un po' di musica. Dai. Ah, è tuo primo colorado con barba cambrurata, llena de ballena, inclinandosi al sol, ed un rayo de luz roja besando nuestra boca, el beso que te sopla, shh, huele alcohol, tu trego lunares, extraterrestriales, entran cuando salen, por eso no se ven. Ah, tu barba colorada, traviesa y rebelde, me afecto con espada, pero devuelve con si la noche te persigue, entrégate a ella, o dile que tienes dolor de cabeza, sobrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, oh, oh, oh. Adiós, infierno, perno, perno, verne, verne, verne, oh, oh, verne, verne, oh, oh. La la la, la la la, la la la, la la la. Attenzione Sanfrediano, attenzione Contado, è riaperto il mercato contadino in Piazza Tasso, ogni venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Garantiamo cibo sano e locale, libero da pesticidi e contaminanti di ogni genere. Venite a trovarci, tutela la tua salute e sostieni i contadini. Rientriamo in diretta dopo... E mi raccomando, venerdì. Piazza Tasso. Piazza Tasso, siete tutte e tutte invitati a venire a comprare al mercato contadino. E noi abbiamo deciso di chiudere questa diretta oggi alle 20.15 perché lasciamo spazio a 50 minuti di rubrica di approfondimento. L'abbiamo scovata così nell'etere, ci è arrivata, l'abbiamo trovata molto interessante, visto che in questi due mesi di quarantena tante relazioni si sono basate soprattutto su quelle sul virtuale, esatto, infatti specie attraverso delle applicazioni utilizzate con i smartphones, esatto. E abbiamo beccato questi due tipi un po' strambi, mi sembra un Umberto, un Baldo, Ustro, sì, e un certo chattologo che pare stiano facendo una rubrica, una trasmissione che parla dei pro e dei contro, degli aspetti di luce e di oscurità ombra, e di ombra di quelle che sono le principali app di dating, quindi che si usano per conoscere, qualcuno direbbe per scopa, altri direbbero per trovare la propria moglie, il proprio marito futuri. E sì, ci è parso interessante, quindi abbiamo letto il programma di questa, pare sia una miniserie di 6-7 puntate. Oggi vi mandiamo, diciamo, la puntata pilota, molto generalista, zero, sì, molto poco critica, ci è sembrata, no? Nel senso che parla un po' in generale di quelle che sì, saranno senza, i toni della, esatto, della discussione. Della discussione in maniera un po' ironica. Beh, molto dire, ironica, così, molto almeno ironica. Almeno ci è sembrato. A me, insomma, mi ho sentito tanto da ridere. E poi nelle prossime dirette del lunedì vi faremo credo che riusciremo a captare anche altre, esatto, puntate che parleranno della storia di queste app di dating, da quando c'erano gli esisteva, incontri sulla pulce, a quando non esistevano. Che cosa sì, c'era al sì, posto di quegli incontri lì? The Box, un mio amico Simo mi ha fatto ricordare che c'era The Box, era un sistema per MTV, mandavi, scrivi, cerca una ragazza gattina calorosa, e come si sono evolute, poi, e chi ci guadagna? Esatto, chi ci sta dietro, chi ha approfittato di queste app per poi... Chi ha approfittato per guadagnarci tanto, sarà questa nuova rubrica, per cui vi facciamo ascoltare la puntata zero e vi salutiamo perché non ci risentiamo, sì. E dopo ascoltate Wombat, anche dopo ci sarà un collegamento con Radio Spore, radio amica, vi invitiamo a seguire. Bene, allora lasciamo la linea a Umberto e il chattologo. Stare con te, a far l'amore con te, sembra volare più in alto. Non chiedo nulla di più, la mia fortuna sei tu, sei con me. 23:09, buonanotte signorine. Buonanotte. È cominciata così, sembrava che fosse un gioco, stiamo ancora insieme. Voi fortunate che state ascoltando Wombat a quest'ora, avete l'onore di ascoltare la prima direttissima di Amore in Chat. Stammi vicino che ho bisogno di te, dalla tua bocca tutti i giorni. Eh sì, è Umberto che vi parla. Di un angelo. Come sempre il chattologo. Eccomi, ciao Umberto, grazie anche per stanotte, faremo compagnia alle nostre radioascoltatrici e affronteremo diversi argomenti. Sì, come ormai sapete, per voi che siete abitudinarie della Wombat, sapete che ogni venerdì alle 23:10 comincia un po' una conversazione su come si fa a avere delle relazioni oggigiorno, soprattutto quando la distanza è imposta da decreti ben più verticali di noi. E chiederemo informazioni a giro, a chi è esperto, a chi ha fatto esperienza di tutto ciò e anche a chi ha bisogno di consigli per sapere ma come posso arrivare al mio amato o alla mia amata se manco posso vedere le labbra che sono sempre coperte dalla mascherina. È un'ottima domanda questa, a cui cercheremo di rispondere, e per le nostre radioascoltatrici abbiamo anche delle chicche inedite. Le ascolterete durante tutta questa ora, e se vi piacerà questa puntata mi raccomando scriveteci sulla piattaforma Wombat che trovate nel sito wombat.noblogs.org in home page, andate sulla piattaforma sul pad e ci potete scrivere in diretta chiedendoci domande, facendoci cose, facendoci complimenti, eccetera. Risponderemo a tutto. Stammi vicino che ho bisogno di te. Ecco Gianni Dani, è il migliore. Esatto, Gianni Dani è un poeta del nostro tempo, è un grande, può aiutarci a conquistare le donne, soprattutto conquistarle con le parole, così come si fa oggi. Ah Ah sì, quindi ecco, attenzione, abbiamo una primissima importante rivelazione del chattologo. In chat, se ci vuoi dare una percentuale, quanto valore hanno le parole, quanto l'immagine che si può avere, sai, io mando una foto, un'immagine, e quanto la sensazione, perché c'è anche, no, un po' uno stato d'animo a distanza, immagino. Certo, ovviamente abbiamo, insomma, la foto in sé può dire tanto, ma se non segue un'emozione, una sensazione, il sesto senso che tutti noi abbiamo, ma che abbiamo un po' dimenticato, poi le parole servono per recuperare quello che abbiamo perso dalle immagini. Quindi le parole hanno almeno 60% di impatto sulla riuscita delle nostre chat. Ecco, ma allora voglio approfittarne qua, visto che sono qui con il chattologo, e non è sempre così facile trovare una figura professionale così specifica oggigiorno. Quanti clienti, immagino di entrambi i sessi e di tantissimi generi, quali sono ora quelli presenti nel mondo? Ufficiali sono 22-23, ma poi immagino ce ne siano comunque molti altri. Quanti di essi si presentano da lei chiedendole dei consigli sul linguaggio da utilizzare in chat? Ecco, questa è una domanda, una bella domanda. E ora la pandemia ha aiutato molto a venire fuori questa figura del chattologo, perché molte persone si rivolgono al chattologo per portare fino in fondo le loro relazioni via chat, che voglio ricordare non sono solo quelli che stanno cercando ancora l'anima gemella, ma ci sono anche delle coppie che, pur di mantenere il proprio rapporto in vita nonostante la distanza che può essere stata imposta appunto dal lockdown totale, hanno bisogno, perché non siamo più abituati alle parole. Ah, quindi stiamo parlando di tutte quelle migliaia di giovani che ancora non erano coppie ufficiali, di ragazzi 16, 17, 18 anni, costretti a essere rinchiusi con le loro famiglie durante il lockdown, che giustamente lei dice dovevano in qualche modo continuare a contattarsi durante questi due difficilissimi mesi. Esatto, esatto, parliamo proprio di quelle situazioni che sono ancora a metà. Bene, bene, avete capito che sarà una puntata ricchissima di informazioni. Questo è Amore in Chat, e direi che è il momento di regalarvi tante altre emozioni provenienti da quell'eco dell'81, quando noi stavamo nascendo. Umberto vi parla e Umberto vi ha cantato Notte Rosa dell'81. Che parole, grande, chattologo. Grande pezzo, Umberto Tozzi è un mito. Un super mito. Questa è Amore in Chat, stiamo cercando di indagare tutto ciò che succede nelle relazioni nel momento in cui viene imposta una distanza obbligatoria di X metri. E in quei casi l'essere umano trova delle soluzioni alternative per riuscire a continuare a relazionarsi con l'altro e anche a provare emozioni e soprattutto a creare un'aspettativa del rincontro nella fase 2 che sia elevatissimo. E abbiamo infatti con noi il chattologo che ci aiuta a penetrare meglio nella psicologia di coloro che lavorano in questo campo. Esatto, sì, stasera cercheremo di dipanare questo discorso delle chat e di come poter diciamo mantenere questi rapporti oppure crearne di nuovi, ecco. Quindi prima dicevamo che sia i ragazzi che sono rimasti costretti nelle loro case, nelle loro famiglie, hanno continuato a voler parlare e scrivere alle fidanzate o ai fidanzati da casa e ovviamente poi ci sono anche tutte quelle persone che hanno approfittato della quarantena anche per scoprire mondi nuovi. Esatto. Certo. Ecco, ci aiuti un attimo a capire quali sono questi strumenti che possono essere di aiuto a chi vuole arrivare verso l'altro. Ecco, diciamo che le app, più perché si parla sempre di app del telefono, quindi deve essere una messaggistica molto veloce, molto diretta. Le app più in voga del momento sono Tinder, la blasonata Tinder, e Badoo, sono quelle le due più importanti, che nonostante ci sia un alone di, insomma, su Tinder e Badoo si dice che si trovi facilmente da scopare, in realtà c'è tutta una varietà ma anche di anagrafica di persone che le utilizza, che vanno dai 18 anni in su, a scopo culturale. Allora, se io volessi cercare una persona del mio stesso sesso? Ma per lo stesso sesso ci sono sicuramente delle app un po' più indicate sia per la parte femminile che la parte maschile, se così si può dire. Ok, quindi c'è una specificità. Esatto. Invece Tinder e Badoo sono un po' più eteronormative. Sì, hanno dei tratti comunque che vanno al di fuori della canonicità della sessualità, ma diciamo che sì, e come dici tu Umberto, sono comunque più classici per gli etero. Ecco, quanti, se mi può dire proprio un numero, visto che lei è lo scientifico della situazione, quanti delusi o deluse ci sono nell'uso di queste app? Nel senso, è un'app che uno può dire al 100% vai, sì, troverai comunque quello che cerchi, o lascia tanta disillusione? Ecco, questo è un tema molto dibattuto fra noi chattologi, perché confrontandomi con altri chattologi è venuto fuori che c'è un'ampia percentuale di persone che rimane deluso, perché non è così automatico il passaggio dall'incontrarsi e dal far nascere qualcosa, quindi bisogna avere pazienza e usare le parole giuste. Attenzione, a questo ce lo teniamo per dopo perché è caldissimo, e quindi allora vi regaliamo subito un altro super pezzo. Rimanete qui ancora per 30-35 minuti, se ne vedranno delle belle. Thank you. dirmi che non ci avete voglia di andare in disco, a ballare in piazza. Non rimarrete deluse e delusi da questa puntata di Amore in Chat. Salutiamo infatti Anna, lo zio e Claudia e Selene che ci stanno ascoltando. Speriamo di augurarvi un'ottima notte. E di nuovo qui col chattologo che ci aiuta a districarci nei meandri di tutte queste app di chat a distanza, di studiare più a fondo la psicologia di chi usa per necessità, per piacere, per filosofia questi strumenti cedutici abbastanza gratuitamente dalla tecnologia del terzo millennio. Caro chattologo, dove eravamo rimasti prima? L'uso delle parole. Ci scrivono in migliaia. Come dice il suo intervistato, bisogna avere pazienza e usare le parole giuste in chat. Ce lo chiede Anna. Esatto, Anna conferma quello che noi diciamo da sempre. Ecco. Parlando, insomma, tornando al discorso delle app, possiamo dire con certezza che ci sono diversi tipi di frequentatori delle app. Ci sono i palestrati, che sono in grande numero e che i palestrati attenzione, che principalmente hanno foto, questo è uno degli errori, hanno foto con gli occhiali da sole, per cui non si riesce a vedere gli occhi. Attenzione. E hanno foto in bagno della loro tartaruga, che può risultare, diciamo, anche carina, simpatica la tartaruga, però. Ecco, il messaggio è abbastanza evidente: prendetemi per le mie forme. Esatto, dici bene, Umberto. E diciamo che la realtà, che poi ci dobbiamo confrontare con la nostra realtà, nella realtà tutti questi fisici palestrati a giro non si vedono, quindi c'è qualcosa che non torna tra i numeri nelle app e i numeri per strada, ecco. Quindi un'analisi abbastanza approssimativa ci suggerirebbe o che tutti questi palestrati alla fine della vita reale non compicciano un cazzo, o che c'è un sacco di falsi nelle app. Esatto, io ai miei clienti consiglio sempre di non prendere in considerazione questa tipologia di soggetti, ecco, per quanto possano essere appetibili. Ecco, ma una signorina o un signorino molto banalmente rappresentati della categoria dei tamarri, invece immagino che cerchino quella situazione lì, oppure non dobbiamo cadere in questi errori semplici di stereotipizzazione degli strati sociali? Ovviamente tutto dipende da chi mi trovo davanti, e quindi hai fatto una domanda molto pertinente sulla quale non c'è una risposta univoca, o meglio, chi cerca veramente quel tipo di soggetti allora potrà tranquillamente entrare in contatto e avrà anche dei risultati sicuramente soddisfacenti, ma chi invece si fa ammaliare dalle forme potrebbe, ecco, ingrassare le fila dei delusi da questa tecnologia. È tutto chiaro, è tutto chiaro. Quindi al pro della nostra trasmissione ci dovremmo concentrare più su chi utilizza queste app davvero per conoscere l'altro. Esatto. No, perché se no, come dice lei, se soltanto dal punto di vista fisico, lì immagino ci siano poche parole, no? Basta uno scambio di foto, gli faccio vedere i miei addominali, le fa vedere i suoi glutei e avviene un po' il nido d'amore. Invece noi vogliamo andare a inerpicare quelle che sono le ragioni psicologiche che ci sono sotto all'incontro a distanza in una chat, e quindi c'è necessariamente bisogno di andare a parlare di tutte le altre categorie che non sono i tamarri, dico bene? Esatto, il nostro compito non è solo quello di consigliare cosa dire eventualmente o come comportarsi, ma è anche proprio far capire alla persona cosa vorrebbe veramente, che tipo di uomo, di donna vorrebbe dalla vita. E per fare questo bisogna entrare comunque in relazione, lì poi si parte, insomma. Certo, avremo mesi e mesi ovviamente, ma a proposito di questo tempo nel futuro che non sappiamo quanto si dipanerà, ci chiedono, milioni di messaggi arrivano, incredibile, vedi, con la costanza nel tempo alla fine una trasmissione viene premiata, mi chiedono come faremo a recuperare dal vivo tutti i disastri relazionali che abbiamo fatto in questo mese di chat. Allora, chattologo, si può parlare di disastri relazionali per prima cosa, e poi nel caso in cui si possa parlare di disastri relazionali è possibile recuperarli? È un argomento spinoso e difficile da affrontare così per radio, però ci proveremo a dare delle indicazioni che possano servire alle nostre radioascoltatrici. Però vorrei porre una domanda io, soprattutto a chi utilizza già queste chat, quindi potrà capire il senso della mia domanda. Ma è possibile trovare qualcuno, qualcuna con un cervello nelle chat, in queste app di incontri? Questo gioca, diciamo, a sfavore delle chat. Certo. Però può esserci questo incontro, e quindi chi può utilizzare queste app? Tutti. Quindi lei ci aiuterà, immagino, a dissotterrare quelle strategie per riconoscere se una persona è di cervello o no. Ci aiuterà in questo? Sì, ci proveremo e daremo dei consigli anche su questo. Bene, sì. bene. Non anticipiamo i tempi, che qui se no si regala dolcini alla fiera. Esatto. Andiamo quindi un altro super. Andiamo con calma. Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Lasciarsi vivere tu. senti buona, è quasi fatta. Zucchero a velo, la gola è soddisfatta, e nella stanza c'è. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco a poco. Si fa così e tutto apparecchiato per il cuore, per il palato. Sarebbero bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente. Dolce, dolcissimo, sconveniente, quei bei peccati succede sempre. Quei bei peccati succede. Tanti, tanti, tantissimi gli argomenti che vi abbiamo iniziato a introdurre, ma che svilupperemo nel corso delle prossime settimane, e ovviamente dobbiamo cominciare sempre dall'inizio. Abbiamo già affrontato un attimo, abbiamo visto quali sono i grossi dubbi, cioè quando si parla di relazione a distanza in chat, grazie anche alle domande che ci sono arrivate in questi 45 minuti abbiamo capito che le problematiche di base sono: ma chi ho davanti? Ma questo tipo di relazione è sano, fa male? Come faremo a tornare a una relazione vera, corporale, dopo 2 mesi di relazione in chat? Come si fa a riconoscere se l'altra persona ha cervello? Cosa vuol dire se mostra solo gli addominali? Tantissime domande, però non dobbiamo avere fretta, alla fine è notte e di notte si sa, il tempo rallenta. Cominciamo quindi dal principio, il primo messaggio. Siamo qua con il chattologo che, come avrete già capito, ci aiuterà a esplorare. Allora, il primo messaggio è la parte più importante, perché da qui dipende le sorti della relazione, insomma, che vogliamo instaurare. E non si può, ecco, una cosa da evitare assolutamente è salutare semplicemente. Ciao. Attenzione, perché questa è una rivoluzione incredibile rispetto alla relazione corporale. Esatto, questa è una rivoluzione, anche perché abbiamo già saltato una fase in cui ci guardiamo, ci ammicchiamo e inizia un po' questa fase di avvicinamento. Lì abbiamo già scelto un parolone, diciamo, che in quel caso abbiamo già dato la nostra preferenza, quindi sappiamo già che c'è un interesse. Siamo ancora molto superficialmente, quindi non partite con la mente. Pensate solo che c'è una persona davanti con cui potete già parlare, perché è lì pronta ad ascoltarvi. Allora, il primo messaggio deve essere d'impatto. Uno può essere divertente e prendere spunto di qualcosa. Per esempio, uno va a spulciare le foto, se c'è una foto divertente oppure una foto carina, oppure più foto, allora fa dei complimenti sulle foto, oppure chiede di un particolare della foto. Questo è un modo per iniziare un po', diciamo, empatico, esatto, no. Perché bisogna predisporsi all'empatia. Questa è la regola fondamentale, perché ovviamente, essendo distanti, non c'è quel feedback immediato che dà il guardarsi negli occhi. Non c'è l'odore della pelle. Esatto, non c'è la chimica, come si dice. E quindi predisporsi all'empatia è importante, e sfruttare piccole aperture. Sono piccoli dettagli, piccole cose che risultano anche piacevoli, da domande piacevoli da sentirsi fare. Che bello, che bello. Ecco, quindi il grosso mondo del ma esiste l'empatia nell'amore in chat o no? Lei mi sta confermando che non solo esiste, ma deve essere prerequisito fondamentale per consentire a una relazione in chat di svilupparsi nel modo più limpido possibile. Esatto, sì, hai centrato il punto. L'empatia gioca un ruolo fondamentale nell'amore in chat. Ora definiamolo così, insomma. Certo, cioè un amore con la minuscola, per ora, poi vedremo. Certo. Ma però qui si apre un altro dualismo. Da una parte lo spontaneismo, quanto vale lo spontaneismo, e dall'altra invece il programmatismo, cioè io devo rispondere e fare quello che ha più probabilità di mostrare una certa cosa di me. E qui è un problema, perché quando io scrivo uso e aziono una parte del mio cervello che è prettamente razionale, quindi già di per sé sembrerebbe che lo spontaneismo è lasciato un po' da parte, il che ci predispone a mostrare una parte di noi che è soltanto parziale. E questo è vero in parte, perché è vero, durante la scrittura, cioè per poter scrivere attiviamo l'emisfero sinistro, che è l'emisfero razionale, e questo è verissimo, ecco. Però la prima domanda è semplicemente un modo per entrare in contatto. Nel momento in cui arriva la risposta, allora dovremo abbandonare un po' la nostra parte, o meglio, cercare di bilanciare la nostra parte razionale, la nostra parte emotiva. E quindi qui entra in gioco l'empatia per riuscire a avere una conversazione che sia soddisfacente per entrambe le parti. Chiaro, e questo è consiglio ai miei clienti. Quindi lei dice: utilizziamo dei consigli e una forma abbastanza predisposta, precostruita come chiave, per aprire però una porta che porti dentro una stanza che è fatta però di se stessi. Esatto. La cosa migliore a quel punto è essere se stessi. Beh, bellissimo. Abbiamo intervistato un altro carissimo amico, nonché esperto, play lover, e andiamo a sentire un attimo cosa dice e poi lei commenterà. Settimana scorsa abbiamo stabilito un nuovo primato nel nostro piccolo. Siamo stati i primi in Italia che non si sono limitati a fare una semplice consulenza a distanza ad una donna, ma abbiamo fatto un vero e proprio corso di chat ad una donna, dal vivo, di 2 giorni, 2 giornate individuali, una con me e una con Cri. Il titolo per questo video mi è venuto in mente come un fulmine a ciel sereno, dopo la giornata trascorsa insieme a lei. Tutti gli uomini amano il sesso, motivo principe che li spinge a fiondarsi come avvoltoi in chat. Questo non è un male, ognuno fa ciò che vuole. È un male quando un uomo in una conoscenza freschissima pensa sempre solo al sesso, lo esterna e puntualmente si brucia la ragazza. Serve tempismo quando vuoi introdurre l'argomento sesso in chat. Non puoi introdurre una roba così delicata al 10° messaggio, perché tutti si comportano così da vermi allupati e tutti vengono cestinati. A te serve differenziarti dalla massa. In quella giornata abbiamo chattato con decine di uomini, tutti cestinati tranne 2. Guarda caso, gli unici 2 che si sono concentrati prima su altro e non hanno mai introdotto frasi sessuali. Risultavano, agli occhi della ragazza, più credibili, e paradossalmente la ragazza con loro avrebbe, dopo un po', affrontato l'argomento sesso, perché lei aveva capito che per loro non era una priorità impellente. Sta tutto qua. Quindi quando puoi iniziare a parlare di cose sporche, cose hot, con una ragazza in chat? Partiamo prima da ciò che non devi fare. Uno, non fare, specie dall'inizio, battutina sfondo sessuale. Ad un certo punto uno, parlando di lavoro e in risposta al nostro messaggio che diceva noi, svolgi un lavoro che ti appassiona e che hai inseguito da tutta la vita, non ti pesa neanche per un secondo. E lui risponde: vero, anche se non sarei mai felice quanto Rocco. Agli occhi dei meno esperti questa potrebbe essere una battuta innocente, ma agli occhi di chi ne sa un qualcosina in più si accende una lampadina in testa. Quindi metto subito in guardia la ragazza e le dico: occhio che quando fanno queste apparenti battutine innocue, po' sfondo malizioso, vogliono vedere la tua reazione. Se vedono che lasci spazio, lasci correre, saranno sempre più espliciti. La ragazza non capiva bene, allora faccio: senti, faccio così, diamogli corda e vedrai tu stessa. Allora ho risposto una roba tipo: ah, beh, anche per rock è un lavoro, puntini, puntini, puntini. Lui ride e si parla un po'. Dopo altri 4 messaggi, lui in risposta al nostro messaggio che faceva: io ballo da quando sono piccola, ho fatto danza moderna, adesso però mi diletto e basta. La sua risposta da larva è stata: chissà che bel corpicino che hai, puntini, puntini. Ve lo giuro, capite? 2, altro errore, non essere esplicito. Essere espliciti, specie all'inizio, è ancora peggio. Anche perché l'uomo medio non riesce mai ad esternare una battuta a sfondo sessuale senza sembrare un lurido arrapato marcio. Non devi essere esplicito dopo 10 messaggi. 3, se la ragazza non accetta di parlare di queste cose è perché le hai esposte male, è troppo presto, non ha voglia, ha le difese alzate. Insistere, tra l'altro, sulla stessa linea di comunicazione, e quindi da come l'hai introdotta, come potrà intuire, forse no, non ti porta da nessuna parte. Ora capiamo quando può iniziare a parlare di cose sporche con una ragazza in chat. Vediamo alcuni accorgimenti. Con i miei studenti, quando ai corsi master conosciamo ragazze, ma anche in coaching, noi parliamo di sesso. Ma non chiedo WhatsApp dopo 30 messaggi, ma dopo una chat articolata di botte e risposta, coinvolgente. Quindi quando so già tanto su di lei. Quindi quando sento che partecipe, che fa domande, che ride alle mie battute. Quindi il primo punto è arrivare su WhatsApp. Non chiederglielo dopo 30 messaggi. 2, una volta su WhatsApp il discorso sesso lo introduco con messaggi a bassissima frequenza. Le battute maliziose servono come in chat, ma non puoi inserirlo con lo stesso tempismo con cui lo inseriscono gli altri. Sbagliano. Passi dalla parte di quello che è in cerca solo di divertimento. E quasi tutte le ragazze ne sono allergiche. La battuta maliziosa va inserita quando sei in confidenza e quando hai dato modo e prova alla ragazza che sei veramente speciale rispetto agli altri. La incuriosisci per una buona comunicazione e in piano piano inserisci la roba sporca. Che tipo di battute maliziose? È davvero molto banale crearle, molto semplice. Facciamo un esempio random. Lei, sì, in definitiva, serata ideale, quando fa freddo, Netflix e sushi. Tu, sì, beh, ci sta. Ma al programma manca qualcosa, puntini puntini. Sai com'è in inverno con la casa fredda, serve scaldare la temperatura. Non vorrei mica morire congelata, punto esclamativo, linguaccia. 3, via alternativa, più esplicita. Una volta che avrai inserito messaggi più o meno velati, e lei ha sempre call. Ecco, torniamo presto, presto, prima che sia troppo tardi, dal nostro sessuologo e dal nostro chattologo, anzi. Ecco, da 1 a 10 quante cazzate ha ascoltato in questo audio? Ma più che dare un numero, io direi questo è quello da non seguire dal punto di vista del cliente e da quello da non fare dal punto di vista di un professionista. Ecco, subito, subito. Quindi attenzione voi giovani chattisti e chattiste. Non andate su YouTube a cercare consigli su come non fare, come fare. Scriveteci a Radio Wombat e chiedete del chattologo. Lui vedrà i consigli giusti, perché ho già, in effetti, ascoltando questo giovane, eminente tinderologo, ho capito che c'erano delle cose che non tornavano. La prima ha parlato di suoi studenti. E non capivo perché deve avere 16 anni lui, vabbè. La seconda diceva anche di questa cosa che le donne, sempre dividendo così il mondo in uomini e donne, con questa banalità sconcertante, diceva che le donne non cercano, sono allergiche al cercare divertimento per chat. Allora, oltre a tutte le altre cose che lei avrà trovato di sconcertanti, ci vuole raccontare un pochino la sua visione? Ma prima di dire la mia visione vorrei, insomma, spendere due parole su questo fantomatico professionista che quanto di più sessista io abbia sentito nella mia lunga attività. E questa dice lunga sulla qualità che si può trovare in internet, in giro, ecco. Quindi veramente mi associo al tuo appello di stare attenti a questi finti professionisti, a questi venditori di fumo, possiamo dire. Poi per il resto i suoi consigli erano veramente, insomma, a parte il presupposto che ogni incontro, ogni chat, ogni passaggio sia finalizzato a parlare di cose sporche. Cioè, questa è veramente una considerazione un principio degradante. Sì, esatto, è qualcosa di degradante che ti porta, come si diceva prima, a pensare solo con la tua parte razionale per finalizzare il tuo obiettivo. Ma noi non abbiamo un obiettivo ben preciso. Noi vogliamo conoscere una persona. Se la vogliamo conoscere, dobbiamo empatizzarci. Non possiamo, cioè, a noi non ci interessa le cose sporche, che poi anche denominare le cose sporche mi fa ridere, perché appunto c'ha 16 anni, quindi parla di cose sporche perché gli hanno insegnato che sono cose sporche. Quindi ecco, aiutaci a capire, più che un Cristoforo Colombo che va e cerca di conquistare le Americhe, è un Conrad che si perde nei fiumi africani. Esatto, hai reso bene l'idea. Il nostro chattologo, grazie, perché ci stai spiegando meglio, perché in questo mondo ci sono tanti, tanti, tante pregiudizie. Stiamo quasi giungendo a fine, dobbiamo cercare di chiudere un attimo il punto per stasera. E c'ho una cosa in mente, una domanda abbastanza chiara, eccetera. Possiamo dire che la prima regola per una chattologia come si deve è non imporsi regole? Questo è vero. Non possiamo usare le stesse regole, o comunque lo stesso modo di parlare, lo stesso linguaggio con persone diverse. Significa che non abbiamo empatizzato con loro, non le abbiamo, cioè non siamo entrati in contatto con loro. Bisogna avere dei registri diversi per ogni persona a cui si parla. È la stessa cosa che accade nella vita reale. È bellissimo, chattologo, tutto quello che sta dicendo. Un'altra domanda un pochino provocatoria, perché è ora mezzanotte, siamo al 16 maggio, non si può non cominciare con una domanda provocatoria. Ma da lei immagino che vengano uomini e lei gli dà consigli da uomo. Quando vengono donne, lei si sente capace di dare consigli ad esse, o le consiglia di andare da una chattologa? Ma diciamo che nella mia carriera ho affrontato, insomma, gli argomenti anche con donne, anche con altre sessualità, ecco, cioè che al di là dell'uomo donna. E quindi vengono anche molti omosessuali da lei, sì, a chiederle, sì, consigli, esatto, su queste, esatto, cose. Si tratta di linguaggio, di come approcciarsi, si tratta di emozioni, di sensazioni. Non è qualcosa che è comune a tutti gli uomini, a tutta la specie umana, per eliminare ogni barriera, ecco. Non è questione di essere uomo o donna, è questione di sensibilità, di ascolto, di empatizzare. Ritorna sempre questa parola, empatia, ritornerà sempre. Quindi empatia più chat si avvicina più che altri metodi di relazione alla pansessualità. Esatto. Possiamo dire che è uno strumento per sperimentare il conoscere un altro essere umano, indipendentemente dal proprio sesso, dal proprio genere, ma solo dalla bellezza dell'incontro con un'altra mente, un altro corpo, un'altra anima. Esatto, questo dovrebbe essere lo scopo di incontrarsi tramite chat, lasciando libere, aperte tutte le strade. E questo dovrebbe essere anche il faro che guida i chattologi. Ahimè, come abbiamo sentito prima, non è così. Ma faremo il nostro meglio per eradicare i falsi chattologi da questo mondo. Ci sentiamo presto, io ringrazio tantissimo, grazie, caro amico e esperto chattologo. Grazie a Umberto, buonanotte a tutte. Buonanotte. Non lo faccio più, amore, non lo faccio più, solamente.